tribù, eh? Non tutti insieme, ragazzi. Allora, questa sera Cabaret ospita i Figura. Volete presentarvi nel frattempo? Tipo dire come vi chiamate, cosa suonate? Ok, facciamo un giro di nomi. Sì, io sono Francesco, suono la chitarra, canticchio e basta. Canticchio. Io sono Federico, sono il basso. Io sono Giulio e suono la chitarra e me la canto un po' anch'io. Se la canto. Piero, batteria, anche se piccolina. E io Alberto canto e suono la chitarra. Allora, piacere, benvenuti. E allora, forse vi chiederei di iniziare a introdurre un po' i Figura, quindi un po' anche da dove è nato il vostro nome, visto che pare che ci siano omonimi. Siete nati nel 2017 a Milano, e quindi se non so se volete raccontare un po' la vostra storia fino ad oggi. Sì, diciamo che il collante è un po' Piero, nel senso che eravamo tutti amici, ma sparsi, nel senso non ci conoscevamo tutti amici di Piero. E sì, quindi c'era chi, per esempio, con Piero qualcuno si conosceva dall'elementare o dall'asilo addirittura, altri poi si sono conosciuti dopo al liceo, e niente, avevamo tutti voglia di suonare e quindi abbiamo iniziato noi quattro senza Franceschino, e poi dopo uno o due anni, non mi ricordo bene, un paio d'anni, sì, 2019 diciamo prima. Esatto, è entrato anche Fra, che è il fratello di Albi, tra l'altro. Tanto fa ridere perché Albi canta e suona, io suono e canto, quindi siamo un po' un chiasmo di Figura. Oggi canti e suoni anche tu. E niente, quindi appunto nel 2017 ci siamo ritrovati in questa saletta prove a suonare, marcia a suonare, e questa saletta che poi pian piano con gli anni abbiamo abbandonato perché mi ha fatto il nostro studietto e ci siamo un po' poi, come si dice? Stabilizzati. Stabiliti lì. E Figura cosa rappresenta per voi? Cioè, perché avete scelto questo nome? Come è nato? Ci sono diversi dibattiti dietro, io non ne conosco neanche uno perché sono arrivato dopo, però insomma... Però continuo a usare questa scusa quando non conosce i brani, dicendo sono arrivato dopo, sono 7 anni che sono arrivato. Vabbè. Devo dire il nome? Eravamo a tavola in campagna, a casa mia, dei miei genitori che saluto, secondo me sono in ascolto, siamo in diretta. Ciao Lorenzo. Siamo in diretta. Siete in diretta, sì sì. Allora papà ha proposto Pantegane Puzzolenti, a papà piacciono le cose così, e abbiamo detto no. E... ci è venuta sta parola, così. Abbiamo cercato, se c'erano altri gruppi, parlavamo di un dissing poco fa, non citiamo. Comunque per plagio. Abbiamo detto di non parlarne che, invece. Se ci stanno ascoltando. Speriamo. No, incredibile, salutiamoli. Speriamo. Comunque salutiamo. No. Al tempo c'erano solo dei gruppi di cumbia, mi ricordo, sudamericani. Abbiamo detto, va bene, dai, non dovrebbe esserci troppo conflitto di interesse, che poi c'è stato, ma non con loro. E basta, no, comunque è molto casuale la scelta del nome. E invece il vostro rapporto con Milano come città? Perché, diciamo, ascoltando i vostri brani, in realtà secondo me c'è anche un alludere spesso a un altrove, no? Cioè a un qualcosa che forse è fuori da questa città, e quindi mi chiedo invece il vostro rapporto con questa città com'è? Zero, secondo me. Anche perché siamo... è una città accogliente. No, nel senso che non... cioè... non parliamo di città perché abbiamo passato molto tempo appunto in campagna da Piero a suonare tante volte. Abbiamo messo su questa sala voi prova. Non siete di Milano, ditelo. Sì, vabbè, sì. Rivendicate la vostra siamo provincia. Siamo di Ravenna, non è vero. No, siamo di provincia, mio fratello, però non è tanto questo il punto. Abbiamo sempre trovato molta ispirazione in luoghi non appartenenti alla città e anzi... Molte delle primissime canzoni sono nate un po' pensando ai pomeriggi e weekend che passavamo in campagna a suonare e a fumare le canne e a passare il giorno così e basta, senza impegno, e quindi È stato un po' questo, non c'è nessun tipo di appartenenza. Però c'è anche da dire che effettivamente hai colto giusto, cioè da questo c'è stata un po' anche la dicotomia del non riconoscersi magari nella dimensione, cioè ovviamente poi viviamo la città perché per lavoro, anche per divertimento comunque la viviamo, però è vero, raccontiamo un mondo diverso anche in relazione a quello che noi abbiamo sempre un po' avuto come setting, un po' di espressione musicale, quindi diversamente contrario alla città, e quindi in realtà nasce anche questa, non fa una piega in questo modo qua. Ma quindi, e città intesa come dici dimensione urbana, quindi un sì, po' sì, come dimensione urbana, noi ci vedevamo lì nella saletta a marcia e comunque già insomma i nostri testi erano, diciamo, evocavano altre situazioni insomma diverse dal tessuto diciamo urbano, insomma relazioni sì. Sì, che mi viene in mente anche gli unici due video che abbiamo girato sono girati non sì, in altri posti, perché è stato automatico pensare a un'ambientazione che non c'entrasse nulla. Ma è legato anche a una dimensione di tempo, cioè di come magari il tempo fruisce nella città rispetto a una dimensione più, come posso dire, lenta, cioè per come l'avete descritta, no? Tranquilli in campagna, diciamo, che vi fate le canne, eccetera, magari una dimensione un po' che si più può dire rilassata. No, se certo, no me lo rimangio. Ascoltano da casa, quindi cerchiamo di... No, però intendo magari è una dimensione anche un po' più introspettiva, ecco, invece sì, non so se invece c'è un tema sul fatto che nella città non ci si riesca a ritagliare degli spazi, dei tempi del genere, e quindi anche per una dimensione creativa come un gruppo musicale. Ha senso anche quello che dici sul discorso del lento, perché poi tutto quello che facciamo non ha mai voluto seguire logiche, uscite, discografia, tempistiche strette. Se pubblichiamo un disco ogni 5 anni quindi in qualche modo ha senso quello che dici, sì, rientra anche questo nel discorso, cioè non abbiamo mai voluto seguire un po' la frenesia di molti ragazzi che vogliono fare musica, vengono a Milano perché è la città dove No, tutti infatti per quello lo chiedo, vengono, cioè, per spaccare, ecco, non abbiamo mai voluto seguire quel tipo di logica, ma perché non è mai stato nelle nostre corde volerlo fare, cioè abbiamo trovato forse il momento di massima tranquillità e espressione quando appunto abbiamo detto facciamo il disco, ci siamo dati dei tempistiche, ci siamo andati noi senza troppi problemi, e è stato bello così, perché è stato un processo molto lungo, siamo in 5, quindi è molto complicato anche mettere d'accordo tante persone, non c'è nessuna persona che ci ha detto dovete fare così perché è meglio, scartate questo pezzo, il ritornello non funziona, cioè, abbiamo scelto tutto noi, quindi questo rientra anche forse nella logica della lentezza, quindi nella anche cioè, digerire un po' le idee, ecco, questo è molto importante, quindi noi abbiamo anche tempo di digerirle e a volte anche di vomitarle, quindi... Ma e Milano come si pone in questo senso per un giovane gruppo musicale? Cioè è una città che è accogliente, in cui riuscite a inserirvi, o invece è molto competitiva? Cioè lo penso anche per, pensando magari se qualcuno che ascolta sta iniziando insomma a vivere un'esperienza di un gruppo musicale, come anche approcciarsi, cioè ne abbiamo parlato anche con l'Ore di T, in parte presenti questa sera. No, super Lord di T. Non ti vedo, però penso che ci sia. Applauso. Il mio primo gruppo. E quindi non so appunto se posso. Secondo me è molto complicato. Appunto per questo abbiamo fatto questa scelta, perché non entrare un po' nel il legno, e entrare nel, diciamo, nella lavatrice, nel turbinio di contattare etichette, booking, organizzare cose, la produzione, lo shooting, pubblicare i singoli, i contenuti social, cioè tutto un lavoro enorme che è diventato oggi la musica, che non è soltanto la musica, ma è tutta la comunicazione, tutto il cosmo che devi costruire intorno, che è molto complesso, quindi o hai una struttura che ti segue e che ha come dire, delle basi solide su cui tu ti puoi, come dire, accomodare. Nel nostro caso noi siamo fortunati perché ognuno di noi ha un ruolo anche sotto questo punto di vista nella parte di comunicazione, di produzione, live, queste cose qua, quindi siamo proprio autoprodotti, autogestiti e chissà altro. Però per un artista che, o artisti che non hanno, cioè che iniziano da zero, che hanno meno agganci, che arrivano qua anche fuori sede, non conoscono nessuno, è molto complesso, ecco, molto complesso. Non per fare il disfattista, ma è così, perché c'è tantissima proposta, c'è tantissima proposta, e insomma il mercato è un po' piccolino, ecco. L'altra cosa, secondo me, facendo un piccolo passo in avanti, quando il disco era semi pronto, abbiamo pensato che la scelta migliore per noi fosse autoprodurci e quindi mettere su un'associazione che ci facesse anche da etichetta discografica, in cui quattro di noi sono coinvolti e anche altri ragazzi. Si chiama Rogo Records, e secondo me in quello abbiamo anche trovato il nostro rapporto con Milano, che è appunto volto un po' a dare uno spazio diverso, cioè per fare musica diversa in questa città, in cui appunto in modo diverso, non diverso, cioè modalità diverse, sì, con modalità diverse, con anche obiettivi diversi, appunto per mettere insieme questa volontà che abbiamo un po' di fare le cose in comunità, anche in tranquillità e senza seguire appunto le logiche di mercato, la frenesia e queste cose qua. Quindi abbiamo cercato il rapporto con la nostra città, cercando appunto di creare uno spazio che andasse in controtendenza rispetto a quello che spesso e volentieri si trova in giro. Magari poi torniamo sulla questione della Rogo Records, ma prima volevo chiedervi invece, partendo dal vostro primo EP, che ricordo essere Sarà un leggero ricordo, che sembra sia uscito nel 2020, come vi sentite oggi, cioè come è stata l'evoluzione del gruppo a oggi, o non so, anche l'amico di tutti. Dici nella scrittura o nella entrambi, in generale? Sì, cioè come vi sentite di essere evoluti, o diciamo quello che ha rappresentato per voi il vostro primo EP, o esatto, anche quello che magari avete lasciato indietro entrando sempre di più in questo, diciamo, mondo. No, devo dire, siamo molto affezionati a quel primo EP, però lo guardiamo anche con molto distacco, perché da lì è cambiato tutto, sia il nostro modo di produrre la musica, ci siamo affidati anche ad altre persone, abbiamo registrato quell'EP nello studio di Giuliano Dottori, che è lo Iacuzzi, giusto, Iacuzzi, scusate, e, registrando comunque noi in autonomia, però abbiamo usato il suo spazio e tutto, ci siamo affidati, diciamo, un po' a realtà esterne, perché eravamo più giovani e molto più scarsi, e quindi, diciamo, da quel punto di vista è andata migliorando. Poi eravamo soprattutto, più grande intoppo è stato la pubblicazione, mi ricordo ci siamo un po' impanicati, non sapevamo bene come si faceva tutto quell'aspetto lì, poi era in pandemia, è uscito forse appena prima, no, dopo, durante, quindi eravamo lì a discutere solo su WhatsApp, si sa come va, quindi siamo anche un po' scannati, mi ricordo, con le mascherine, però sempre. Voi a San Felice nella bolla, proprio a limonare tutto il tempo voi. No, quindi sì, lo guardiamo con molta nostalgia, ma abbiamo imparato tanto, niente, quello sì. Riascoltarli, li riascolto io ogni tanto. Però sì, secondo me, se posso aggiungere la mia, tutti mi guardano con col sudore freddo, cioè c'è sia un po' di evoluzione nelle modalità con cui magari adesso scriviamo altri pezzi o cerchiamo di farlo, però c'è sempre un po', come dire, io quando ascolto un po' il primo EP mi ricordo appunto come sono venute fuori le canzoni, e secondo me lo stesso imprinting anche creativo rimane sempre un po' la nostra traccia. Cioè, tu prima ci hai fatto una domanda molto, Albi diceva forse, sì forse hai ragione, perché in realtà noi non è che usciamo con un'idea che scriviamo a terra su un pezzo di carta, ma è qualcosa che esce quasi dalle pance di tutti noi, che poi viene sintetizzato nella sala, e poi qualcuno, spesso Albi, anzi tutte le volte Albi, o comunque poi in coordinazione con tutti, ci scriviamo sopra un testo che spesso in realtà è più evocativo, cioè la gente che ci ascolta comunque lo sa, cioè è sempre quasi più intuitivo come processo creativo, e secondo me il primo EP rappresenta molto questa cosa qua, e la manteniamo anche tutt'oggi, cioè non è solamente un'evoluzione di natura stilistica, ecco, che comunque esiste. Avete segnato un po' un vostro modo di lavorare. Sì, cioè siamo abituati così e ci viene bene così, siamo questo, ecco, come direbbe. Siamo questi, direbbe grande Uga. Però secondo me è il grande tema dei Figura. Io sono arrivato 2 anni dopo e la cosa molto bella, insomma, io e Albi abbiamo suonato in diverse band prima, piccoli esperimenti giovanili, e dove c'era molto cervello dietro, no? Facciamo questo genere, facciamolo così, quelle sono le ispirazioni, porti quello. Mentre invece con i Figura è stato molto bello, perché c'è sempre creata questa sintonia quasi appunto intuitiva, che un po' nasce probabilmente dal fatto che io e Albi suoniamo da quando siamo ragazzini, e loro quattro suonano anche loro insieme da tanto, quindi anche lì il link è stato molto abbastanza veloce. Secondo me è un po' il fil rouge, no, che porta da quell'EP anche ad oggi, ecco, secondo me, se posso aggiungere la mia. Posso? Puoi. Posso? Ho detto una cazzata, no. E quindi, sempre rimanendo su vostre creazioni, invece il vostro album, che è uscito invece nel 2024, giusto? Sì. E si intitola Un mondo per noi, come vi rappresenta? Cioè in che modo un po' vi racconta? Dai Giulio, tocca a te. Vabbè, un mondo per noi è anche quello un po' che dicevamo prima, quindi creare il nostro spazio, creare la nostra comunità per scappare da quello che ci sta intorno un po', e niente, stare tra di noi, ma non solo per chiuderci o per tenere lontano quello che sta fuori, ma anche per costruire qualcosa di solido tra di noi. Ma infatti mi sembra che, se posso dire, i temi che un po' escono fuori dal disco sono sicuramente un po' quelli dell'amicizia, del creare comunità. E quindi non so se anche questo, per dire, è un po' in relazione al fatto di come create, anche diciamo nel fatto di dire preferiamo stare fuori da un contesto cittadino, e quindi che questo possa aiutarvi a sviluppare un po' più questa concezione dello stare insieme. Ma in verità è proprio cioè anche la gente che ci viene a vedere sono tutti amici, cioè moltissima gente che ci viene a vedere sono tutti amici, e anche poi come è stato anche poi finanziato la stampa del vinile è nata anche in questa maniera, cioè hai azzeccato il punto, cioè verte tutto un po' su questo senso di comunità che si vuole costruire, perché nasce un po' in primis tra di noi, cioè noi ci vediamo una volta a settimana, capita le volte in cui non suoniamo neanche perché passiamo il tempo a parlare, a pensare, a sognare, a raccontarci cose, perché oltre a essere un gruppo musicale è anche, cioè, un'amicizia molto solida su cui ci si può contare, e quindi sì, cioè, l'idea è stata un po' trasmettere questo valore o questo concetto anche in forma fisica o anche, come dire, in forma immateriale, cioè a livello musicale. Quindi la cosa che aggiungerei è che non l'abbiamo solo trasmesso, ma l'abbiamo anche fatto in pratica, nel senso che per alcuni pezzi abbiamo proprio anche chiamato molti amici, di cui alcuni sono qua, per registrare. Un applauso per gli amici. Esatto. Bravi ragazzi. Per registrare i cori di alcuni dei brani, quindi quello è stato veramente, secondo me, un po' il momento corale, della registrazione del disco, cioè proprio quello in cui l'abbiamo un po' chiuso, no? Cioè rendersi conto che appunto c'è tanta gente con cui ci piace stare e appunto non solo per fare musica, ma figura sono un po' non so, il tramite di tutto questo, quindi. Sì, comunque, scusa se ti interrompo, cioè, adesso da questa narrativa sembra che siamo chiusi in campagna. No, infatti, appunto. Cioè, in realtà, adesso, no. Diciamola tutta, noi viviamo la città, cioè, viviamo la città come chiunque, Milano in realtà è la nostra città e l'amiamo anche per quella che è, però è dare, come dire, un imprinting diverso anche nella creazione di piccole comunità dentro la città, anche perché Rogoredo è questo, no? Cioè, posso dire una cosa che ho percepito dall'ascolto è che forse più che nel ricercare, ecco, una dimensione, cioè, come dire, di stacco più netto, è più una specie di, cioè come se proponeste un'idea di non ordinario, cioè come se vi immaginaste un'idea diversa di quotidiano, quindi forse un po' più legato, come dicevo prima, anche perché l'abbiamo poi cioè una dimensione di diversa di con lavoro canonico tempo. Se vediamo da 9 to 5, cioè. sì è vero sì. Quindi un po' più un appunto sei stato brado proprio questo è un po' uno slogan sì, cioè una, ecco, forse in questo senso anche pensavo l'idea di comunità più come proporre un diverso modo di stare insieme, di viversi i rapporti, la quotidianità, e quindi forse in quel senso pensavo un diverso modo di viversi la città, esatto. Il tempo della città, ecco. Sì, tu poi hai detto anche bene, insomma, anche il tema dei rapporti che emerge tantissimo, come giustamente dicevi, nel disco. È anche uno dei temi molto cari, diciamo, a chi si occupa di sociologia cittadina, per cui fondamentalmente Milano ha un grosso problema di relazione tra le persone, tra i cittadini, e quello che cerchiamo, come dire, di fare il nostro picco. Poi dicevamo giustamente, cioè nasce comunque dal nostro... Cazzo ridi? Rido perché non siamo in comune. No, dico, no, lo so che non sono al consiglio comunale, però dico... Dico, nasce dalla nostra esperienza e la conosciamo bene, ci piace molto, la portiamo anche nel disco, ecco. Va bene, avvocato? Faccio di lavoro. Ma e quindi mi viene questa domanda. Che lavoro faccio? No. Non te lo dirò. No, beh, musicista, pensavo fosse la risposta. Sì, vivo di questo. Ma... per voi la musica è più, diciamo, uno spazio dove evadere o dove immaginare appunto la realtà da un'angolazione diversa? Non so se è una domanda che ha senso. Cazzo, si può dire cazzo. Ha detto cazzo. Ho detto cazzo. Si può dire tutto. Si può dire tutto? No censure qui. Siamo sicuri si possa dire tutto. No censure, non siamo il Franco Parenti. Non penso possa. Tutto. Siamo in live, quindi non posso siamo dire. Live, potete dire tutto. Non posso dire tutto, voi non potete dire tutto, quindi... tu nello specifico puoi, c'era proprio un cartello, no, Francesco. No, c'è qualcuno che mi guarda sicuramente. Direi più la seconda, non mi ricordo le opzioni. Però mi ricordo a, che... questa, a questa dovete dire... rispondere tutti, grazie, anche Giulio. Bravo. Facciamo un pulso WhatsApp. Io voto la prima. Io voto la prima. Dai, ci ripeti le con figura voto la prima, con rogo voto la seconda. Dai, ripetici le opzioni. Se... allora, le opzioni sono: se vi immaginate la musica più come un modo per evadere dalla realtà, la realtà, o invece un modo per vedere la realtà da un'angolazione o angolazioni diverse. Rimango convinto della mia scelta, vado col pacco numero 2. Dai, vediamo chi vince. Quindi abbiamo un voto per uno. No, per me è un po' entrambe, nel senso... Cazzo. Però vedi, questo è il sintomo, no, adesso a parte gli scherzi, questo è il sintomo del fatto che noi non è che ci mettiamo a riflettere veramente su... E anch'io. No, sto dicendo una cosa che si collega a quello che ho detto prima, cioè non è che c'è un lavoro cervellotico di trasferire a chi ci ascolta un messaggio ben preciso, cioè nasce veramente dall'intuito, no? Poi... ognuno di noi forse poi lo interpreta un po', come dire, secondo le proprie sensibilità. Ti sto guardando, Giulio, perché voglio la tua risposta. No, sì. Stava rispondendo lui. No, perché Giulio vuole dire... No, nel senso, per me è davvero un po' entrambe, nel senso, sia evadere dalla realtà, sia comunque offrire uno sguardo alternativo quando si ritorna nella realtà, dopo essere evasi, tornare. E qual è questo sguardo alternativo? Beh, il nostro. Poi soprattutto da che carcere evadiamo? Cioè non... Quello di Milano. Abbiamo delle esperienze comuni che ci accomunano, in cui ci piace. La droga. Hai cambiato postazione. Mi dissocio da quello che ha appena detto quella ragazza che non conosco. No, nel senso in cui ci piace vivere delle situazioni non ordinarie e poi riportarle dentro la realtà, mm-hmm, con qualcosa di nuovo. Poi anche... però tocca a Fede, è lui l'ago della bilancia. Fede, dici la tua. Io sono d'accordo con te, io sono entrambe, anche perché quando suonavamo, soprattutto nella saletta marcia, cioè il tema era un po', era talmente piccola che tu entravi in questo posto, a malapena ci stavamo dentro, e ci si chiude dentro, si fa un rumore devastante anche per le orecchie, quindi in qualche modo lo fai anche soprattutto per evadere, cioè entri dentro, ti sfoghi, esci da ogni tipo di preoccupazione, pensiero della giornata, e quindi esci che hai un'altra visione di quello che eri prima di entrare appunto in sala prove, quindi insomma sono collegate le due cose, ecco. Quindi vedi che però è la prima per te. Sì, no. Quindi vincere evasione? No. Io per me è, sì, è abbastanza l'evasione, ma non tanto dalla realtà, ma cioè nel senso io quando suoniamo, cioè, mi trovo benissimo con loro, cioè proprio come persone, come amici, e quindi è proprio un momento in cui appunto parola, non parola. C'è parola. Ti stai emozionando, Franco. No, e quindi dimmi di più. No, e quindi cioè è proprio un momento in cui tutto quello che i pensieri, le cose, appunto non ci sono, e ci troviamo noi, cioè può succedere qualsiasi cosa nelle nostre vite, ma il lunedì siamo in sala, suoniamo, facciamo i nostri pezzi e ci divertiamo e diciamo le nostre cose, cioè è proprio un bel momento in quel senso di evasione, non tanto dalla realtà, ma si mangia cinese, si gioca ping pong tantissimo, e no, però appunto anche troppo. Anche troppo. E quindi c'è, cioè, proprio quello un po' veramente un momento per noi, ed è anche da quello che nascono poi i pezzi in quel modo lì, che sono, cioè, molto tra di noi, suonati, perché i nostri pezzi nascono suonati. Suonati e poi cantati sopra, no? No. È un tema, è un, cioè un modo. No, normalmente il cantautore fa l'accordo, certo, e poi scrive il testo. Invece il testo viene praticamente dopo, alla fine proprio. Sì, sì. Allora, adesso torno invece indietro all'inizio e vi chiedo appunto di raccontarci un po' di più cosa vuol dire essere una band indipendente, e quindi, diciamo, nel concreto che cosa significa per voi, forse anche da un punto di vista proprio lavorativo. Lavorativo inteso che stai dando per assodato che lavoriamo di questo, perché non è così. Cioè, no, ovviamente... allora suppongo che non sia così, no. Perché anche lavorando nel mondo delle arti so che non si sopravvive, non a Milano perlomeno. Allora, io mi guardo strano. Dico due cose, sicuramente tanti carichi di strumenti e ampi in giro per i locali, questo sicuramente è il primo tema. E tanto sbatti a organizzare un po' le situazioni per suonare e... organizzare anche questi momenti come questo, molto carini, di, insomma, di condivisione di quello che è un po' il nostro pensiero musicale. Sì, cioè significa anche soprattutto crearci noi le opportunità e i momenti per proporre qualcosa che piace a noi, nel senso se fuori non c'è qualcosa in cui riusciamo a stare, eccetera, allora ci creiamo noi, ci organizziamo noi i concerti, ci produciamo noi la nostra musica, abbiamo appunto nel nostro studio, quindi anche a livello tecnico siamo noi a far tutto. Ma questo anche per esempio un'influenza sul vostro modo di fare musica, cioè nel senso, penso, essendo indipendenti siete magari meno come dire, piegati a un mercato della musica, o, e quindi non so questo che impatto ha su di voi, o invece no, non so. No, ma infatti se posso dire, per noi in realtà è proprio un privilegio essere indipendenti, non scambieremo con niente e nessuno. Vedremo. Venduti. Tutto si può pagare. Anni, tra poco ti quando invito arriva sul palco, Blanco che ci chiede il featuring, dici lì è finita. No, davvero, perché noi poi siamo fortunati che siamo in cinque, quindi smazzarci le robe da fare, darci soprattutto conforto e gasarci a vicenda è importantissimo. Infatti conosciamo tanti artisti, amici, indipendenti da soli che soffrono molto di più tutti questi vari aspetti rispetto a noi, che comunque una partita di ping pong veramente ci consoliamo, cioè ci diamo una pacca sulle spalle, tiriamo avanti, cioè tanto sappiamo meglio di tutto cosa non vogliamo fare, cosa non vogliamo essere, quindi anche che Giulio vince sempre. Sì, ma adesso è in recovery Giulio. Sì, che poi appunto, cioè, non vuol dire fare le robe alla cazzo di cane, nel senso essere indipendenti, cioè non è che siamo anzi, lì, immagino sia anche più faticoso. Sì, sì, cioè non è che siamo lì a non fare niente, ci pigliamo i nostri tempi, ma comunque prendiamo la cosa comunque seriamente, nel senso sì, con amore, con tranquillità e scherzandoci su, ma poi ci crediamo comunque, ecco. E facciamo, perché detto facciamo. Così sembra che andiamo lì, giochiamo ping pong, sì, fine. Però poi vabbè, appunto abbiamo la siamo molto l'avete amici. L'avete scritto una canzone sul ping pong? No. Ancora. Ragazzi. Non ancora. Sarà nel prossimo disco. Fantastico. Che proporrete qua, ovviamente. No, no, purtroppo stasera... C'è, solo l'abbiamo spostato. No, purtroppo stasera non siamo riusciti a proporre nulla di nuovo, ma vabbè, comunque pian piano stiamo raggruppando le idee, siamo... Arriverà. Non prestissimo. E invece appunto la Rogo Records, volete un po' raccontarci dell'etichetta, come, cioè cos'è per voi? Appunto l'idea è... Cioè magari anche raccontare proprio cos'è Rogo come spazio. Sì, sì, sì. Allora, l'idea appunto è nata principalmente dal fatto che avessimo uno studio in cui suonavamo noi e suonavano altri gruppi. E da lì appunto noi avevamo il disco pronto e abbiamo pensato che la cosa che volevamo fare era autoprodurci, e quindi appunto abbiamo capito come fare, e il modo per farlo era creare un'associazione culturale che facesse da etichetta discografica. E appunto questa associazione culturale è condivisa, i soci fondatori siamo io, Giulio, Piero, Albi e altri tre ragazzi che appunto ruotavano all'interno dello spazio di Rogoredo che abbiamo in via dei Pestagalli, e da lì nasce Rogo Records e l'abbiamo poi allargato allo spazio Rogo Studio e poi diciamo al concetto di Rogo che ci dà... Non è bruciare le streghe come se c'era nel 1200. No, però... il nome ad oggi è l'idea più brillante che abbiamo avuto. Sì, sì, sì. Ne andiamo veramente fieri, con le parole e tutto. Cioè, tutto è cominciato dal nome. Dobbiamo un po' ripulire la fama di Rogoredo. Che... Vero. Tendo tutta non sia mai. E no, appunto, è stato impegnativo. Ed è impegnativo tuttora perché comunque appunto è un'associazione, quindi una struttura anche, cioè, legale da tenere in piedi, con i conti e tutto quanto. Sti cazzi. Però cioè, conti, burocrazia, abbiamo commercialista, abbiamo i soci, no, facciamo le teste. Ci tengo perché sono il tesoriere, quindi... Cioè, è in regola. È tutto in regola. E no, appunto, però è stata... Salutiamo gli amici dell'Agenzia delle Entrate. No, però appunto è stata una cosa comunque fondamentale e molto bella che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che adesso appunto piano piano prende sempre più forma e capiamo come gestire, come strutturare, che cosa fare. L'anno scorso abbiamo puntato tanto sugli eventi, fare delle live session con altri gruppi che venissero a suonare, noi li registravamo e nella registrazione avevamo anche il pubblico e quindi appunto la gente che voleva venire a sentire i gruppi appunto aveva questo tipo di eventi. Facciamo un evento annuale un po' più grande, di solito verso fine settembre, inizio ottobre, che è il Rogo di fine estate, che è appunto un evento un po' più grande, anche quello tutto è l'idea di fare controcultura musicale. E parallelamente a questo, Rogo Records è un'etichetta discografica e quindi appunto cerchiamo di produrre tutti i gruppi che nascono e che ruotano attorno allo spazio. Il primo disco uscito è stato appunto il nostro, e poi appunto c'è stato Stay tuned, ce ne sono stati altri due e ce ne saranno quest'anno un bel po', forse, no? Non ce, so. Ne sarà. Vabbè, ce ne sarà. Ce ne sarà. Ce ne sarà per tutti i gusti. Esatto. Vabbè, ce n'è. Tutti diceva. No, quindi appunto una bella esperienza anche quella. Allora, prima di chiudere... Ah no, vai. Lo dico, in qualche modo... Per riassumere, forse è la cosa ganza, appunto, è dare spazio e l'opportunità di, come dire, avere uno spazio e mezzi per produrre musica ad artisti che sono spesso poi sempre legati al senso di comunità di cui parlavamo prima, gravitano intorno a noi, sono amici che sono costruiti da anni e quindi gli si fornisce la possibilità e lo spazio e i mezzi per costruirsi anche un loro disco, una loro voce, ecco, nel panorama, ecco. Questa è un po' la cosa bella di Rogo, che è tutto molto pulito, ecco, è molto... Lo spazio non è pulitissimo, però dico, le intenzioni, i conti sono puliti, ecco. Le intenzioni, ecco, i valori e partono un po' da questo, cioè avere un terreno comune. La regola dei 3 secondi a Rogo non funziona, se ti cade qualcosa. No, è vero, dai Piero, dai. Adesso, Rogo è un posto per terra, non lo mangiare. Ora Rogo è un posto pulito, facciamo gli eventi lì, quindi insomma, dai, adesso diciamo. Io ci provo a passare il moccio, ma non riesce a pulirlo, è troppo. No, l'altro giorno parlavamo di prendere appunto un gruppo di pulizia o affittare addirittura. Speriamo che ATS non ci stia guardando, per favore. Affittare un'idropulitrice, quindi sì, esatto. Se conoscete, a poco. Siamo alla ricerca. Ottimo. No, volevo sapere se c'era qualche domanda dal pubblico. Sì. Eccoci. Vedi, è mio fratello. Dai Lore, ti vedo. Vieni a fare una domanda. Adesso racconta la barzelletta. Allora, ricordo che Lore è stato il nostro primo ospite a Cabaret. Un applauso per Lore. Piacere, Cabaret. Ospite. Oh, fate tutto quello che vi dico. In piedi. Ma io volevo fare una domanda che, su un argomento che è già uscito un po'. Volevo chiedere come sono cambiati i rapporti interpersonali del gruppo da quando in studio c'è il ping pong. Allora, devo dire, c'è un agonismo senza pari. Abbiamo senza toccato senso. Un picco di serenità e poi col ping pong è tutto un po' sceso, c'è un po' di mascolinità tossica dietro, solo sul ping pong. Sì. No, la verità vera è che ci siamo dovuti a un certo punto dare una regola dei limiti, esatto. Orari come i bambini, cioè, davanti alla PlayStation. Sì, tipo. Sì. Basta. Insomma, ci vediamo per la durata della partita e poi amici, come prima, come il terzo tempo al rugby. Beh, Giulio si è mostrato Vieni, vieni, Agne. No, cioè, no, adesso caccio Giulio fuori, vieni qua, fai la domanda. Giulio è nettamente il più forte, quindi tutti noi cerchiamo di colmare il gap. Arrivare al suo livello. Esatto. E alla sua maledetta. È così. Ma perché non hai ancora giocato con me? Adesso in convalescenza, se anche tirate fuori il tavolo dopo, esatto. Adesso è in convalescenza, quindi non può. Ah, ok. Sì. Questa è la scusa che racconta. Quindi è un po' più debole. Si è operato. Noi speriamo. Cioè. Ci sono altre domande? Io ho una domanda. Vai, il ragazzo carino lì dietro. Scusa, Ciao, allora la mia domanda è, ma un po' avete credo risposto prima, quindi magari la domanda è più scontata di quello che è, però a livello proprio di musica, di stile, tutto, cioè voi vi siete trovati ispirazione da qualche tipo di genere? Cioè, secondo me è brutto classificare la musica per genere, perché poi l'impronta di un gruppo, di un artista, è molto anche personale. È brutto categorizzarsi per forza in uno stile, ma voi traete ispirazione da qualche genere? Non so, avete un punto comune o semplicemente vi piace lo stesso stile di musica e quindi avete generato questo vostro stile proprio in seguito alla creazione, in seguito al trovarvi e suonare, e quello era già il vostro stile perché è uno stile che piace a tutti? Tanto non ci piace lo stesso stile. No, questa è una domanda, esatto, bellissima, che ovviamente manca un po' all'appello. Adesso che non abbiamo parlato di questa cosa qua, effettivamente. Secondo me siamo stati abbastanza, cioè abbiamo costruito un po' il nostro rapporto per riuscire a prendere, diciamo così, i gusti di tutti, i punti in comune, e farli nostri. Infatti, secondo me, quando la gente ci chiede che genere facciamo, il nostro Giulio dice pop, c'è chi dice shoegaze, c'è chi dice post-punk, post-pop. Cioè, post-pop. Post-pop è la vera declinazione, secondo me, di Giulio. Non c'è, è difficile dare una categoria. Questo perché è un po' un collage di idee. Ed è forse... è quello che un po' ci caratterizza, che non c'è forse un vero genere. Cioè, c'erano alcuni pezzi che magari suonano un po' verso un lato, altri che invece sono un po' più cattivi, un po' più dark, però ognuno di noi ha trovato la formula per dare spazio a ognuno, affinché ognuno di noi potesse, come dire, contaminare i pezzi. Se non è questo il pezzo in cui contamino io, sarà il prossimo, e viceversa. Sì, poi secondo me c'è anche da dire che le band che, non so, io quando parlo con Batteri, secondo me, cioè, le band che si categorizzano in un genere è qualcosa di un po' superato, possiamo dirlo. Cioè, a parte i grandi generi calderone, è bello che la musica moderna abbia anche un po' un approccio senza limiti, senza confini, no? E quindi a me piace l'idea che diceva giustamente Alberto, che è un po' un Albi, va bene? Mio fratello, ci conosciamo da 29 anni. Cioè, un collage, non è un minestrone, ecco, è un collage organico che nasce da sensibilità diverse. Cioè, ad esempio, io magari ho qualche genere preferito, tutti comunque ci accomuniamo in qualche modo, no? Cioè, c'è una partenza di base, ecco, una conoscenza, sì, sì, di base. Cioè, non è che Fezio ascoltate lo Swift tutto il giorno, però c'è, beh, che non ci sarebbe niente di male, però c'è un saluto a te lo Swift. Però c'è da dire che secondo me anche, diciamo, politicamente, dal punto di vista dell'azione musicale che un gruppo fa sul mercato, è bello che vada anche un po' in controtendenza con quello che sa dire che genere fate alternative rock, che genere fate black metal, cioè ascoltaci e senti quello che facciamo, ecco, che è sempre No, è sempre... Però lui ci aveva chiesto nel nostro caso specifico e noi un po' all'inizio l'avevamo fatto. Ci avevamo detti tipo, ci passavamo i brani, mi ricordo ho parlato con Giulio fuori dall'Ostello Bello dopo aver fatto un solo set in acustico che ci ha fatto piagne, mi ha detto facciamo la band e hanno detto facciamo Emo Midwest in quel momento, no? Poi abbiamo capito che eravamo troppo scarsi per suonare in 11 ottavi e fare tutti i tapping e quella roba lì. E quindi poi è uscito fuori il gusto comune, però mi ricordo che all'inizio lo faccio anche noi, abbiamo provato a dire passiamoci i brani per fare questa roba qua, no sì. C'era anche tu dopo, infatti ci passavi la roba Emo Midwest anche tu. No, però... poi se secondo me c'è un'altra cosa che pur non ascoltando esattamente le stesse cose abbiamo una creatività musicale che è abbastanza... compatibile, cioè molto compatibile, per cui cioè più che appunto in quello che ascoltiamo, in quello che vogliamo portare, poi dopo quello che ci viene di suonare è molto compatibile e quindi abbiamo creato questa appunto nostra cosa che non so, cioè appunto poi possiamo definire post-pop o come vogliamo, però alla fine è un po' quello che siamo riusciti a cioè è la sintesi proprio di che cosa vogliamo esprimere. Che cosa resta di me? Arriverà la cover post-Taylor. Allora, se non ci sono altre domande, dai, vai, dai, Agne, dai, Agne, vieni qua, puoi dai. Dirmela nell'orecchio, la dico io. Se ne puoi fare l'ultra, sta fuori. O puoi dirla a Lore e la dice lui. Dai, ma allora Lore, vieni tu. Dai Lore, vieni tu. Dai. Sì, puoi dirmela nell'orecchio. Beh, allora io vi faccio un'ultima domanda e poi la chiudiamo, così per dare un insight su ciascuno di voi, qual è il vostro pezzo vostro preferito e perché? Wow. Allora io posso rispondere prima io. Cioè come vi rappresenta? Questo è un po' per far uscire le vostre anime singole. Allora io rispondo tutto questo, lo sapete, todo quisto in brasiliano. Pezzone che a Sao Paolo ha fatto grandi ascolti. E lo scelgo perché, a parte essendo, è molto nelle mie corde dal punto di vista, diciamo, musicale, come references. Però ecco, quello che mi è piaciuto anche la storia di questo pezzo, che è un po' nato incidentalmente alla scrittura del disco, è quasi nato per caso da un intermezzo tra provare un pezzo e l'altro per i live che avremmo fatto per l'uscita del disco. È nato questo insieme di arpeggi e ci hanno guardati tutti un po' insieme e ho detto cazzo, questo è un pezzone, cioè, quindi dobbiamo ritardare il disco per registrare, esatto. Questo il disco era finito, ho detto no, questo pezzo deve entrare, quindi un po' il calimero del nostro album Albianuisce, perché così, però è stato anche il nostro singolo in qualche modo, ecco, non lo ricordavo, però comunque è molto molto evocativo, quindi io scelgo quello e niente, passo la parola a Federico. Penso che la nuova versione suonata di Un'altra vita sia il mio pezzo preferito al momento, perché è divertente, cioè è il più bello da suonare, non è esattamente come nel disco, perché nel disco è molto molto acustico, invece adesso appunto abbiamo incorporato tutti gli altri strumenti, cioè ci siamo anche di base, ci siamo anche io e Piero E poi c'è la cosa... Ho battuto i piedi per terra nel disco, mi sono registrato mentre pestavo. No, esatto, cioè la cosa bella secondo me di quel brano è che... Il famoso pestone. Comunque sei stato inserito nel nuovo IMAI anche tu, diritti connessi. La cosa bella di quel brano in realtà è che l'abbiamo registrato con una formazione particolare, nel senso che io suonavo la chitarra, è stato registrato in sala, c'era anche Agne. Con Agne, tra l'altro. Esatto. Grande, un applauso Agne. Per Agne. E poi ultimissima cosa, mi sento di dire che non sopporto più in un silenzio. Questo voglio dire. Che suoneremo proprio stasera. Che invece è proprio il mio pezzo preferito. No, perché non mi sono ancora stancato di ascoltarlo e mi emoziona sempre. Ancora un po' quando l'ascolto. E poi se posso dire una cosa su In un silenzio, è stato il pezzone che mi ha fatto dire ok, voglio suonare quei figura. Non sto scherzando. Dopo che hai fatto vari provini per altre band, ho detto sì, scelgo i figura, questa, dai. I Queen non mi piacciono. Sì, Freddy, scusa, non suonerò con voi. Io dico, vabbè, ci sta anche dire un brano diverso, ognuno, dai, ci proviamo. Sì, dimmi cosa vuoi dire tu. Bravo, ok, io non... Perfetto, a posto, senza neanche trattarla. Io dico Sei come noi, che è il brano di apertura del disco, che è un po' il manifesto, secondo me, sia a livello di scrittura del testo, che è proprio di come è uscito il brano, cioè in un secondo. Avevamo questa demo, è uno dei... brani che abbiamo resumato prima, noi incidiamo col telefono degli audio vocali in sala mentre improvvisiamo, e c'era già la linea di ritornello identica dove Albi, invece che cantare in gibberish, come si dice gibberish, no, alla... in un finto inglese finto italiano anche, diceva proprio sei come noi, non cambiare mai. Ne abbiamo fatto un po' un manifesto generale, ci tenevamo a metterla come prima del disco, anche se era veramente un posto sbagliato dove collocarla da ogni punto di vista, sia di BPM che di arrangiamento e tutto, però ci tenevamo proprio che fosse così, e ancora oggi ha quel significato lì per noi, un po' di abbraccio collettivo. Bello, non lo sapevo. Grazie. Come non lo sapevi? C'eri in sala anche tu? No, c'ero in sala, ma non pensavo fosse questo. Eri con noi comunque. Esatto. Sì, ero con voi. Poi non era nei divano, due anni. Il famoso biennio. No. La mia invece è Piango Rido, perché... Ma anche di molti, insomma, molti amici che ci ascoltano apprezzano molto quel pezzo, che forse è il pezzo meno pezzo, cioè lunghissimo, tante parti, anche molto complesso da suonare. Infatti stasera non lo suoneremo, perché non funziona. Sapevo. È il mio preferito, a un certo punto dovete. Devi convincere Giulio, devi convincere. Giulio l'ho già convinto. Okay. No, a me piace perché quando l'abbiamo suonata in modo assurdo, invece di cantare appunto parole senza senso, in quel momento quando ero talmente contento di quello che stava succedendo in sala prove e sentivo bene tutto quello che stavano suonando, cioè avevo in quel momento percepito che stava andando da qualche parte il pezzo. Molte delle parole che poi sono state incise sono le stesse che poi ho cantato quel giorno lì quando abbiamo registrato col telefono, perché in quel momento lì ho avuto la sensazione di, è stato molto automatico rivedere un periodo della mia vita e sputare fuori varie immagini e in modo assurdo rispetto a tutti gli altri pezzi che abbiamo registrato, quello è rimasto molto fedele a quello che è successo in sala prove, e in qualche modo un po' anche questo è un bel manifesto del disco, è un po' quello forse un po' più struggente e anche più emotivamente vero, che insomma è la parte che ci rappresenta tanto, ci ci accomuna, ecco, la sensibilità, ecco. Grazie, grazie anche a tutte e tutti voi per essere qui. E adesso, per accontentare Agne, suoniamo.